apri la porta, io sono qui per te. Getta la chiave dal paradiso, poi resta dove sei. Angelo azzurro, dammi una mano, se no io cado giù. Giù nell'inferno e resto sul fondo per te. Poi resta dove sei. Angelo azzurro, faccio un peccato, stasera o mai più.